Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi parliamo dell'ultimo romanzo di Donato Carrisi, La donna dei fiori di carta, pubblicato da Longanesi. Carrisi è un nome noto per gli appassionati di thriller. Con il suo esordio, lo ricordiamo, Il suggeritore, aveva venduto 250.000 copie solo in Italia. Poi c'è stato Il tribunale delle anime, ora La donna dei fiori di carta, che, lo diciamo subito, non è un thriller vero e proprio, non è pulp come gli altri. A questo punto Carrisi ha forse deciso di cambiare genere? Sentiamo che cosa ci ha risposto. Non ho cambiato genere, in realtà ho accettato una sfida che mi è stata lanciata all'incirca un anno fa. C'è stato un giornalista che mi ha detto: ma tu saresti capace di applicare le regole del thriller ad una storia diversa? E così ho cominciato a cercarla. In realtà la storia che dà la stura proprio al racconto è una storia reale che si prestava molto bene ad essere raccontata come un thriller. È la storia dell'uomo che fumava sul Titanic. Vale a dire, mentre il Titanic si inabissava, un passeggero scese nella sua cabina di prima classe, indossò lo smoking, tornò sul ponte e invece di cercare di salvarsi si mise a fumare. Quando chiesero ai superstiti di quella notte chi fosse quest'uomo, molti indicarono un certo Otto Fursten, che era un cittadino tedesco che viaggiava per affari da solo. Però quello che non dissero ai superstiti in quel momento è che Otto Fursten effettivamente risultava sulla lista dei passeggeri, ma era morto a casa sua, a Dresda, 2 giorni prima che il Titanic salpasse. Ora, chi era il misterioso uomo che fumava sul Titanic? Io ho provato a dare una risposta con questa storia. Quindi il thriller era perfetto, solo che mentre scrivevo mi sono accorto che la luce del racconto cambiava. E non era un thriller, era molto più semplicemente un noir. A proposito di Titanic, sappiamo che quest'anno c'è il centenario, insomma l'hai scelto apposta? Sei stato un po' furbo in questa scelta? Potrebbe sembrare, in realtà il riferimento al Titanic è molto marginale. Tra l'altro non citiamo il Titanic in copertina, abbiamo preferito questa donna dei fiori di carta. No, è semplicemente lo spunto iniziale e il libro non è uscito in contemporanea con la data dell'anniversario, è uscito un mese dopo, quindi insomma... A proposito di titolo, chi l'ha inventato questo La donna dei fiori di carta, tu o l'editore? In questo caso il racconto non aveva titolo. Nel caso del suggeritore c'era un titolo che poi è stato cambiato. Il mio titolo iniziale del suggeritore è diverso, Il tribunale delle anime l'ho scelto io. In questo caso, dopo aver completato la stesura, abbiamo cominciato a cercare all'interno del racconto un titolo efficace ed è stato il mio amico editor Fabrizio Cocco a individuare questa frase, La donna dei fiori di carta, e si prestava benissimo, insomma, a fare da sintesi all'emozione contenuta in questa storia. Veniamo un po' alla trama di questo romanzo, senza ovviamente svelare troppo. Una parte di questo romanzo è ambientata durante la Prima Guerra Mondiale. C'è un medico che sta nell'esercito austriaco che riceve un compito particolare, quello di parlare con un prigioniero italiano. Perché deve parlare con lui? Beh, ufficialmente per cercare di farlo parlare, vuole conoscere il suo nome e il suo grado, perché il prigioniero si rifiuta di dire chi sia. In realtà il prigioniero comincia a raccontargli una storia e la condizione per svelare la propria identità è proprio che il medico ascolti. E questa storia cambia la vita del medico, perché vedi, accadono spesso delle cose nella nostra esistenza che noi riteniamo marginali, che poi all'improvviso si rivelano come delle porte attraverso cui passiamo e la nostra vita cambia. Ecco, il medico ascolta una storia che non si aspetta e questa storia gli cambia la vita per sempre. In questa storia ci sono ovviamente diversi misteri, perché da subito il prigioniero dice ti dirò chi sono solo dopo che avremo risposto a 3 domande. Quali domande? Chi sono io? Chi è Guzman e chi era l'uomo che fumava sul Titanic? Queste 3 domande scandiscono tutto il racconto. In realtà ci sono molte storie che entrano in questa storia e bisogna raccogliere un po' tutti gli elementi, proprio come si fa in un thriller, per arrivare al finale. Ma in questo libro non ci sono cadaveri, ecco. Il romanzo si apre appunto con la scena dell'uomo del Titanic che fuma. Poi durante questi incontri il medico e il prigioniero hanno proprio un rito del fumare. Come mai hai scelto questo particolare che non è politically correct? Beh, volevo che il romanzo avesse un profumo. E il profumo che mi è venuto in mente è quello del tabacco, perché è un profumo che tutti conosciamo, alcuni lo apprezzano, altri meno. E soprattutto volevo che ci fosse questa ulteriore dimensione nella scrittura. È un momento di salutisti, bigotti, questo, mi rendo conto che scrivere un romanzo che parli anche del fumo sia appunto politicamente scorretto, ma vorrei rispondere con una frase che mi sembra si addica bene allo stile del politicamente corretto: chi se ne frega. Quindi fa parte anche questo delle storie. Tutta la storia, tutto il romanzo è scandito appunto da questi incontri fra il medico e il prigioniero italiano. Io quando ho letto il libro ero proprio in ansia, cioè volevo sapere, non vedevo l'ora che i due si incontrassero per conoscere altri particolari delle varie storie che il prigioniero raccontava. E invece tu, giustamente, come fa un buon romanziere, raccontavi storie, altre cose, insomma mi hai fatto venire un po' l'ansia, l'hai fatto apposta. Beh, in 178 pagine è difficile, insomma, che ci siano interruzioni di rilievo. In realtà questi momenti servono perché poi, quando si arriva al finale, ci si accorge che il finale lo si poteva intuire molto tempo prima, quindi c'è questo effetto dirompente che spero si verifichi, si realizzi, insomma. Ma è tutto in funzione del finale di questo libro, che molti mi dicono lascia davvero di sasso. A proposito dei tuoi libri, tu hai il privilegio di essere letto e apprezzato niente poco di meno che da Ken Follett. Come hai scoperto questa cosa? È una cosa che a raccontarla non ci si crede. In realtà è successo il 1° di aprile, mi sono svegliato in albergo e c'era un tweet di un mio lettore, appunto, su Twitter, che mi informava che Ken Follett aveva commentato il mio romanzo, Il suggerito, negli Stati Uniti, e sono andato a verificare sulla sua pagina. Effettivamente definiva very creepy brilliant Donato Carrisi The Whisperer, perché lui è andato in vacanza ai Caraibi e ha comprato una copia del libro e l'ha letta, la leggeva sulla spiaggia e ha avuto l'esigenza di esprimere questa opinione. Quindi tu immagina che medaglia sia stata per me. Il fatto che sia accaduto il 1° aprile però mi ha portato a ritenere, almeno per le prime ore, che si trattasse di un pesce d'aprile. Ci sono state le verifiche e ce l'ha confermato sua moglie Barbara, poi, che lui è rimasto davvero molto colpito dal romanzo, che sta andando molto bene negli Stati Uniti ed è diventato a quel momento il mio padrino nel mondo. Quanta invidia hai scatenato fra i tuoi colleghi giallisti? Giallisti italiani, dici? Ma credo poca, perché noi facciamo sistema, siamo contenti delle cose che succedono, anche perché io mi sono nutrito dei libri e delle cose accadute agli altri e sono sicuro che, insomma, beneficeranno anche loro del mio successo all'estero. Sai, c'è uno scambio e dobbiamo recuperare un po' questo orgoglio di essere italiani. Per esempio, io apprezzo molto quello che fanno gli svedesi, che dopo Larsson hanno costituito un vero e proprio sistema, sono una forza, e quello che sta succedendo anche in Italia mi riempie d'orgoglio. Tu sei un criminologo, quanto i tuoi studi, il tuo sapere ti aiutano nella costruzione della trama di un thriller o di un noir? Sai, temo sempre che la definizione sia criminale, temo sempre che sia questa, però forse la mia componente criminale mi aiuta più degli studi in criminologia. Tantissimo, io sono soprattutto un cercatore, cioè nel senso vado alla ricerca delle storie. Ho attinto per i primi due romanzi nella mia esperienza appunto di criminologo. Per questo terzo ho dovuto cercare altrove la storia che mi serviva, però anche in questo c'è un certo, come dire, un certo influsso. Ma cosa ti attrae della mente criminale? Della mente criminale esattamente tutto, ma soprattutto la normalità. Uno pensa alla mente criminale come a qualcosa, no, di estraneo, di completamente diverso, di riconoscibile. Invece non è vero. È proprio la normalità della mente criminale che la rende assolutamente irriconoscibile. C'è uno scrittore o un romanzo che consiglieresti ai nostri ascoltatori? Senti, io sono un grande lettore di libri italiani. Mi piacciono molto i giallisti. Beh, mi piace moltissimo Maurizio De Giovanni, di cui ho letto tutti i libri. E mi piace, per esempio, anche Alessia Gazzola, che scrive questi thriller rosa molto efficaci. E questo era Donato Carrisi, ora in libreria con La donna dei fiori di carta, pubblicato da Longanesi. Vi ricordo che gli ascoltatori di Radio 24 hanno un'occasione unica per visitare la mostra di Picasso a Palazzo Reale a Milano. La sera del 24 ottobre la mostra sarà aperta solo per Radio 24. Il primo di voi che invierà un SMS al 349 23